Perché cominciamo a ragionare? Ragionare vuol dire mettere in relazione le cose e i rapporti di causa-effetto. Ora, se tu mi mostri di avere una rabbia simile, se la mia capacità di ragionamento è solo questa, A causa B, dirò che tu sei quella cosa che causa me la rabbia che ricevo, capite? A causa B. Questo modello qua, che noi adoperiamo tutti, eppure siamo laureati, siamo diplomati, abbiamo studiato 40 anni, è una logica che dovrebbe essere abbandonata 3-4 anni, no? 5, 6, 7. È una logica meccanicistica. Va bene per le palline da biliardo. Qual è la causalità che tiene in piedi la vita? Ma non c'è una causa, sono tutte cose correlate, quindi la causalità è sistemica, olistica se volete, cioè cosa vuol dire? Che se questo fa un cambiamento, se questo cambiamento finisce qui, finisce qui, finisce qui, finisce qui, finisce qui, va per tutto. Quindi cambiamo, coevolviamo insieme, regrediamo insieme. Così. Questo da capire è difficile perché tutto il nostro linguaggio non ci educa a questo. Pensate che le cosiddette popolazioni primitive le avevano capite tutti. Tutti sapevano che è così. Che io sono così perché la pianta è così, perché il leone è così, perché il territorio è così. Questo modo di pensare è un pensiero esplicito, un pensiero linguaggio, che è coerente al modo in cui funziona la natura. Questo qua non è coerente al modo in cui funziona la natura. C'è un pensiero, linguaggio, esplicito, che è diverso da come funziona la natura. E allora questo pensiero produce errori. Gregory said, "The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think." What does it even mean to change the way we think? Proprio ragione strumentale. Cioè ragioni per ottenere un risultato. Quella cos'è? Uno scopo. Allora, voglio costruire una casa, quella ragione funziona. Voglio costruire un'arma, funziona benissimo. Ora, la ragione strumentale è una parte adolescente rispetto alla vera ragione, che non è questa. La vera ragione si nutre di qualcosa di molto più grande, che è la contemplazione. Cos'è la contemplazione? La contemplazione è l'osservazione della realtà senza scopo. Fine. Appena c'è lo scopo, cosa succede? Che io di te non guardo più l'intero, ma guardo una serie di parti, di zone, di te, del tuo mondo, specifiche, adatte a ottenere il mio risultato che mi sono posto su di te. Cioè ti uso come un oggetto. The nature of the world in which I live and in which I wish you lived, all of you, and all the time. But even I don't live in it all the time. There are times when I catch myself believing that there is such a thing as something, which is separate from something else.